vuol dire da una parte che la redazione della Zanzara sono quattro ragazzini che giocano a ping pong in redazione quando non c'è Cruciani, quando arriva lui si unisce pure lui a giocare e passano la giornata ad ascoltare così Radio Padania. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cruciani, stasera avete rotto proprio i coglioni. Ma scusi amico mio, non abbiamo nemmeno iniziato. Non abbiamo nemmeno iniziato, arriva ma questo signore. Ha già capito come tira, come tira il vento. Parenzo, la spame la pago da solo, la Zanzara non ha prezzo. Bravo, bravo, brava gente, ascolta la Zanzara, brava gente, segue. Ma quotidianamente questo programma, bravissima gente, gente per bene, sì, gente segue, per sì, bene telefona, no, anche la gente che telefona, che la va, maggioranza lascia comunque la, come dire, minoranza, la maggioranza silenziosa che ho incontrato anche ieri sera, che ero a mangiare una pizza vicino a casa. Sì, ho visto, ci sono delle foto, sì, in giro, sì, sì. Allora si avvicinano due ragazzi, beh, carini, gentili, belli, puliti, studenti della LUISS, economisti, sì. Allora, bravissime, beh, persone, molto carini, sì, studiano economia, ragazzi di 20 anni, faccia pulita, allora, schiena diritta, mi abbracciano, chiedono una foto e mi dicono: noi Parenzo siamo quella maggioranza silenziosa, vabbè, allora, che non chiama, non ci confondiamo con quei miserabili che compongono l'800240024. E quindi è questo il paese, è quello, non disperate, so che siete tanti, lasciate che quello 0,01% di stronzi, miserabili, fancazzisti, ma nulla facenti, razzisti chiamino, sembrano la maggioranza, ma non lo sono, perché siete voi la parte migliore della società. Grazie, a domani. Allora, un grillino scrive, è morta Tina Anselmi, una donna veneta, la prima donna, sì, ministra in Italia, io la ricordo, sì, per la sua dura battaglia partigiana, contro, staffetta partigiana. Aspetta, io la ricordo per la sua dura battaglia contro la loggia massonica P2. Certo. Oggi, 35 anni dopo, il piano antidemocratico della P2 che lei ha tentato di smantellare sta per essere portato avanti da Matteo Renzi attraverso la sua riforma, ti giuro, attraverso la sua riforma della Costituzione. Faremo di tutto per impedirlo, seguendo il suo esempio e votando no al referendum. Cioè questo signore che, e per carità, l'hanno portato, è ancora in circolazione? No, l'hanno portato via. No, è un consigliere regionale dei 5 Stelle in Veneto. L'hanno portato via, è arrivata una qualcuno a portarlo via, no? Vabbè, questa, però, è un'opinione, la politica è fatta anche di queste cose. È un'opinione. Cioè, questo qua, ma l'opinione si deve basare su dei fatti, però. Ha ricordato, per ricordare Tina Anselmi, morta, sì, oggi, ha attaccato Renzi. Sì, sì, vabbè, comunque. A proposito di deliri, la Santanchè, anche questa mischia il sì e no al referendum con l'immigrazione. Uno dice: che c'entra, no? L'immigrazione col sì e no. Qualsiasi persona dotata di senno dice: perché mettere insieme il tema dell'immigrazione, eccetera, eccetera, con il sì e con il no? Ecco, questo ragionamento viene in mente alla signora Santanchè, Parenzo. Senti, senti qual è il collegamento, eh? Senti, senti. Per gli italiani votate sì al referendum, e vi toglieranno le seconde case per varie all'immigrato. Italiani, votate sì al referendum e vi toglieranno le seconde case. Requisiranno le seconde case per darle agli immigrati che arrivano. Quante ne sentiremo, Parenzo, nel prossimo mese? Quante ne sentiremo? Quante c'è balle. Una cosa, però, c'è una cosa. Sarebbe veramente una vergogna se questo referendum fosse rinviato. Perché c'è, sì, purtroppo qualche ricorso. L'Italia è il paese dei ricorsi, ricorsi contro il quesito, c'è quello del signor Onida, ce n'è stato un altro già bocciato. mi sono rotto i coglioni di questa cosa, non c'è nemmeno una certezza. È l'unico paese al mondo, peggio dei paesi del terzo mondo, peggio dei paesi africani dove non c'è democrazia, dove praticamente non si può andare a votare. È una cosa incredibile. Si va a votare spesso, mi pare. Sì, non ho è che capito, non oggi sto dicendo. Oggi, praticamente, no, con la legge elettorale votare, bloccata, eccetera, non si può andare a votare perché nessuno vuole andare a votare. Allora, se non si potrà votare nemmeno per il referendum, veramente succede un casino. Cioè, se lo rinviano, no? Ma non c'è qualcuno niente. Già che dice, per esempio, dovrebbe essere rinviata a causa del terremoto. Ma che? Ma il tuo amico Librandi, per esempio. Librandi dice che sarebbe meglio rinviare perché c'è il terremoto. Sciocchezza. Meno male. E comunque, caro Parenzo, altra rivolta in corso, altre barricate, questa volta in un posto che si chiama Ficarolo. Ficarolo, bel nome Ficarolo, Ficarolo, dove il prefetto ha sequestrato un albergo privato, incredibile, l'hotel Lori. Non è che ha sequestrato, la parola sequestrato è sbagliato. Ha sequestrato, dai, ha requisito. Ha requisito? Ma uno spobiato. Non può requisire un albergo privato. Come no? Ma non funziona, dai, su. Tanto cosa c'era lì? Che attività vedi che c'era? C'era un nightclub, un night, c'era ecco anche un appunto, night. Dai, vabbè, che cazzo vuol dire? Poi non è che l'ha requisito e non gli dai i soldi, no, della pigione giornaliera. Ho capito, ma questo lo Stato rimborsa gli imprenditori. Ma un cazzo gli danno, dai, no, su. Comunque, tant'è che ci sono quelli che lo fanno per guadagnare. Ma allora, mettiamoci d'accordo, da una parte c'è Salvini che dice ci sono imprenditori che guadagnano con i migranti, dall'altra c'è chi invece dice non si può requisire perché non gli danno non una si lira. Può requisire, ma d'accordo? Dai. Ma se uno non è d'accordo, ha ragione Salvini quando dice, scusa, che vai fino in fondo. Secondo te è normale che uno requisisca un albergo privato, ma certo, per mettere l'immigrato? Certo, ma no, non c'è, allora, Parenzo, due punti. Com'è è normale? Giusto requisire ma una casa privata o un albergo privato per darlo agli immigrati? L'albergo privato nessuno lo requisisce. L'albergo non è che requisiscono uno qualunque, un albergo così a caso che magari lavora. Quando hanno fatto in Val di Susa il tracciato della TAV, hanno espropriato alcuni terreni. Ma è diversa e la cosa. Questo c'ha arrabbiati. L'attività, ma loro... c'ha l'albergo, ma che cosa vuol dire? Cos'è quello lì? È un'attività. Quello lì ha un'attività? Sì, Hotel Lori. Vai a vedere Hotel Lori. Come si chiama Hotel? Lori, lui si chiama Foglia. Aspetta, vado senti a vedere che adesso, senti Hotel che Lori. Dov'è senti questo albergo, ah? Ficarolo. Ficarolo. Ma tu dimmi, secondo te un turista, secondo te un americano di Boston, ad esempio, dice "Where are you going? I'm going in Hotel Lauren Ficarolo". Vabbè, ma che vuol dire? Vero, secondo te è così? Ma è un'attività. Tu andresti mai a Ficarolo? Chiama, va, andresti mai a Ficarolo con una fidanzata e dici amore, sai, Francesca, andiamo, ti porto, ah bello Giuseppe, grazie, finalmente ti porto in vacanza, dove? A Ficarolo, all'hotel Lori. Ragazzi miei, dai, siate seri, fammi vedere, non c'è neanche su internet, tranquillo, accogliente, non c'è, informale, costruito su un'autostrada, ma chi cazzo ci va da Via delle Regioni, è un'autostrada, guarda, vabbè, lo sto guardando adesso, indicazioni, Hotel Lori, vabbè, non c'è neanche la stella, una stella la danno a chiunque, manco una ce n'è, manco una, guarda. Su una via che c'è scritto qua, ma come, capito, si arriva in mezzo. Ma cazzo, ma non si può requisire. Ma dai, che gli hanno fatto un favore a questo qui Hotel Lori. Ma che cazzo, senti, di albergo. Senti questo foglio. Vicino a Ferrara. Che poi è vicino a Ferrara e a Rovigo. Sì, certo. Ma da bed and breakfast, manco la colazione ti danno. Vedete che voglio andare a vederla adesso per bene, però. Senti, ah, no, dice senti tre il proprietario, qua. Senti il proprietario, Pensa a te. Ha dato disponibilità prima. No, giuri, giuro su Dio. L'hanno chiamata prima e le hanno detto guardi che noi abbiamo bisogno del suo albergo perché non sappiamo dove mettere i profughi. Gliel'hanno chiesto? Sì. Oh. E lei io cosa ho detto, ha risposto? No. Lei ha detto no. Ho detto di no. No. E non parlavo col prefetto ma parlavo con dei funzionari. Quando siamo andati e siamo arrivati dal prefetto io le ho detto no, perché mi sta... Se io dovessi fare una cosa del genere rovino tre aziende che ho qua nel mio piazzale, un ristorante e un nightclub. Io ho degli ospiti ancora nel mio albergo e ci sono 14 camere già occupate dagli italiani. Questo volevo dire. Questo. Il quindi, quale mi ha detto il signor prefetto, ecco, che io li devo mandare a casa. Come fa a mandare a casa? Ah, lo chiedo a lui, non a me. e io le posso dimostrare che ho già le disdette. Le disdette di clienti che mi hanno detto stasera non veniamo più in 20 persone. Che cosa accadrà se glieli impongono l'arrivo di... se domani arriveranno questi stranieri, che cosa farà? Credo che troveranno le barricate e io per primo sarò legato al cancello esterno. Perciò. Di qui non passano? No, non passano. Allora leggo l'hotel Tanto, Lori, l'hotel sì, Lori, stelle, albergo a tre stelle sì. di recente costruzione, si offre come sosta sì. ideale per la posizione geograficamente strategica. Sì, c'è sull'autostrada. Per l'ottimo rapporto qualità-prezzo e per il sì. suo comfort. Nata, sì. nato da alcuni anni in una realtà rurale a pochi centinaia di metri sì. dal maestoso fiume Po. Sì, dal maestoso, è ottimo fiume Po, è sì, ottimo per un sì, soggiorno di puro relax e contatto sì. con una natura incontaminata e bel verde della campagna del delta. Chiedo, non c'è nulla per forza. È composto da 30 camere ampie ottimo. E luminose, dotate di tutti i comfort moderni, aria condizionata, TV, telefono, per gli immigrati è perfetto, frigo bar, accesso ad ottimo. internet, ampio bagno con dolce e forno. Anche il fonce, ottimo. Offre inoltre un'ampia sala riunioni con una capienza dalle 10 alle 80 persone. Alle 80 persone. Parcheggio possono privato, riunirsi insieme. Parcheggio privato. Ristorante, pizzeria e servizio bar per i clienti scusa, che soggiornano. Ma perché devono andare a rompere i coglioni a questo signore? Oh, però c'è una notizia che ne... c'è... Non avevo, guarda, al prossimo ponte vado a vacanza da Lorio. Non avevo. C'è non una, altro c'è una lì, notizia guarda. Che nessuno sa. In realtà questo signore ragazzi. Sembra. Questo signore sembra. Che prima avesse cercato il viceprefetto, insomma il sì. comune, non so chi, perché avendo bisogno di quattrini probabilmente, voleva capire quanti immigrati, che prezzo avevano gli immigrati, cioè quanti soldi gli davano. E questo qua, appena scoperto che gli davano 7 euro ad immigrato, ha detto no, no ragazzi miei. Cioè anche l'accoglienza agli immigrati per questo signore ha un prezzo. Avete sentito? Mi incateno, mi hanno chiesto... e io ho detto di no, ho già disdette eccetera. Ma lì però... vale Poletti che fomenta tutto, sai. Ma che cazzo me ne frega a me del traffico che sono in giro a piedi a cercare i Pokémon. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Sgarbone e gli immigrati di Ficarolo. Sentitelo. Che si chiama intanto? Non Figarolo, si chiama Ficarolo. Sì. Luogo, no, l'avete scritto Figarolo lì. La figa e la fica sono cose diverse. La figa è del popolo e la fica è dei torinesi come Ferrero, come Agnelli. Cioè, di fica si tratta. Ficarolo è il nostro paese ideale. Tutti siamo di Ficarolo. Allora, c'è un albergo dove tu andresti anche a scopare volendo e dove il padrone ha anche un night, tutta una cosa di alto. Ti vai a creare casino su quelle scopate, come dire, lecite. Quante persone benestanti hanno in casa una filippina o una cameriera, non so, croata o rumena? In molti. Ecco, e quanti hanno in casa una zingara? Cioè, noi che siamo tanto antirazzisti, perché nessuno prende in casa gli zingari? C'è evidentemente in noi un atavico sentimento razzista. No, ma il motivo è molto semplice. Primo, perché non si propongono, perché i lavori di casa non li fanno gli zingari rom. Primo. Secondo, no, te li fanno, te la ripuliscono la casa. Appunto, te la ripuliscono sì. anche bene, direbbe. Ma in realtà non è assolutamente così, perché no, fanno altri lavori. Fanno altri lavori, perché non, lavorano i lavori di fatica, cantieri, i lavori lavorano... di fatica, le donne, no. Le donne rom non li fanno. Molti lavorano nei cantieri. Loro vanno a ricettare un po' di questi materiali frugati della spazzatura, questi allumini, questi ferri, queste robe. Non è legale tutto. tutto questo. Ci mancherebbe altro, ovvio che non è legale. È tutto illegale. È tutto illegale. No, vabbè, infatti vanno perseguiti i reati, chi commette reati va perseguito. Ma poi, è evidente. Le donne no. delle famiglie rom, quelle che stanno nei campi zingari, non è che vanno a fare le pulizie in casa, per loro è umiliante. Magari anche sì. Ma quando mai? Ma non c'è una donna rom comunque che vive nei campi rom che lavora in una casa facendo le pulizie? Non ce n'è una. Comunque, alcuni di quelli sono dei criminali, questo è straevidente. Altri lavorano e lavorano nei cantieri, lavorano, fanno delle comunque, cosette. Ragazzi, Sgarbi deve mettere un po' di ordine ogni tanto nel cervello, perché per esempio dice a Gorino la reazione è legittima, ma scusa, ma sei stato il primo a dire che quelli sono dei razzisti, un paese di razzista di merda, un paese di cialtroni, dai su Sgarbone, mettiti d'accordo, no? Quello non è un luogo di vacanza, è un luogo di lavoro dove c'è stata una grande alluvione, dove le persone hanno lavorato e raggiunto una condizione sociale che comunque rimane difficile. Tu i bandi degli stranieri hanno una relazione legittima. Comunque ragazzi, dopo aver ascoltato il proprietario dell'albergo di Ficarolo, dopo aver ascoltato altre voci, devo dirvi la verità, la proprietà privata è sacra. Ma certo. Questo allora è il vale principio fondamentale. Allora vale, ma non c'entra, non Stato è la stessa cosa, lì devono costruire pezzi di terreno per far passare la TAV. Perché il vuoi? Principio o vale non in generale o non vale. No, quando no. c'è l'interesse superiore dello Stato, cioè della collettività, cioè anche il tuo che non abiti in Val di Susa, ma non c'entra di niente, passare dai. Con la come no, sono due cose molto superiore diverse, o vale sempre o non vale. Per me vale sempre, cioè vale nel caso della TAV in cui sono stati espropriati dei poveri contadini a cui hanno tolto la terra, ma giustamente doveva passare la TAV, li hanno indennizzati e da là passa la TAV. Non è la stessa cosa, dai, uguale. Stai confondendo due cose è diverse. Identico. Non è identico, l'esproprio per vale assolutamente in... no. Qui non c'è nessun esproprio perché peraltro la proprietà, ma, scusa, quello ha un albergo, sarà diritto di quella cosa, persona lì, un albergo avrà il come si chiama? Hotel Ori sul Po. Sì. Hotel Ori sul Po. Avrà il diritto di farci quello che cazzo vuole. 2 milioni di persone che ascoltano la Zanzara. Ce n'è uno che è mai stato a Ficarolo? Hotel Ori. A quell'Hotel Ori? Uno, ne voglio uno solo. Se ce n'è uno mi inchino. Uno, però voglio la foto della stanza. Uno! Ne voglio uno da qui. Ma che c'entra un piccolo paese, no? Uno che è stato a sto albergo di Lori, uno che fa affari miliardari, allora, dove tutti gli Emirati Arabi. Tu dici che conviene conviene al proprietario prendersi gli immigrati. I'm going to Lori Hotel. Nice place, very nice place, great place. There is wifi in the room. It's great. Ma non è che esiste solo Venezia, Only 30 room in Ficarolo. It's the best hotel in Italy, Ficarolo. Dai. Alessandro Livorno, dai Alessandro. Ma dai. Buonasera a tutti. Dimmi. Volevo fare una pensiero sul discorso della signora di ieri veneta che ha alzato questo grande polverone. Io volevo chiedere una cosa al signor Parenzo. Eccoci. Visto e considerato che lo solo il 0,01% della popolazione italiana è fascista, come dice il signor Parenzo. Allora, razzista, allora, sì, avrei una proposta al signor Prenzo, visto che fa il prete col culo degli altri, ma perché non se ne mette 5-6 in casa lui? Ma sai che non l'ha mai detto nessuno questa roba qua? Sono 6 anni che non ho mai sentito nessuno fare questa osservazione intelligente. Cioè, scusa, Alessandro, secondo te, siccome Parenzo è abbastanza favorevole all'accoglienza, eccetera, eccetera, sì, dovrebbe mettersi gli extracomunitari in casa? Sarebbe come dire... Dia l'esempio, se ne mette 5-6 in casa. Sarebbe come dire... Siccome io sono favorevole al Servizio Sanitario Nazionale, cioè che il Servizio Sanitario Nazionale copra anche dei dementi come lei, allora siccome sono favorevole a questo, non sono favorevole a questo, non pago più il Servizio Sanitario Nazionale. Allora facciamo così, siccome io non sono favorevole che il Servizio... Insisti Alessandro. Risponda, le vuole sì o no? 5 migranti. Io voglio che di questi problemi, pagando io le tasse, se ne occupi lo Stato. Perché sì, le tasse che pago chi? Io servono... Le tasse che pago io allo Stato servono anche a pagare la sua sanità e anche l'accoglienza agli immigrati. Giovanni, le Reggio tasse Calabria, che pago Giovanni io. Reggio avete Calabria. Capito? Giovanni quindi Reggio io Calabria. Già contribuisco pagando le tasse come chiunque altro. Bene, Giovanni, vai. Dimmi Giovanni. Giovanni, mi senti? Sì, ti sento, amico mio, dimmi. Senti, voglio essere riguardoso nei confronti delle signore che mi chiamano e sono tanto gentile e non voglio dire parolacce. Ma che c'entra riguardoso? Aspetta, adesso abbiamo l'interruzione che c'è il generale radio come al solito. Giovanni, resta calmo ma carico, calmo ma carico. Te la vuoi prendere con Parenzo come al solito o no? Che cosa? Oh, ma ci senti o no? Giova, quanti anni hai? Sì. Quanti sì, anni hai? 70. Mi raccomando, mi raccomando, sul pezzo, amico mio, sul pezzo. Fermi tutti. Noi universitari non facciamo il ponte e ascoltiamo la zanzara. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi, ti conviene. Vi presenta La Zanzara. Star zitto con l'animale di sgarbi che parla di accogliere, tu ne puoi tenere quattro, tu ne puoi tenere due. Quell'animale non paga una lira di tasse e gli immigrati noi li manteniamo con le tasse, ma che abbia la decenza di stare completamente zitto, è vergognoso che lo facciano andare in trasmissione a dire queste cose e poi anche a dire che gode nel non pagare le tasse, ma è veramente scandaloso. Vedi Cruciani, io sono un chirurgo e ad ogni intervento che faccio nel mio studio esigo che ci sia la zanzara, o in diretta o in podcast, esigo. Sarò, secondo Parenzo, sarò incapace, ma fino adesso non si è ancora lamentato nessuno. Per fare incazzare Parenzo e i vegani mi compro un fucile, prendo il porto d'armi, prenoto a Ferragosto ad Albettone e scendo le piste sparando ai caprioli. Allora ragazzi, a proposito di Albettone e di Gio Formaggio, Parenzo, pare che si stia muovendo addirittura la Digos. E ti credo, Digos. Giusto, meno male. Leggo sul giornale di Vicenza, alto là a Formaggio si muove la Digos, riflettori accesi sulle parole contro i profughi, la CGL, ora che cazzo c'entra la CGL poi mi dovranno spiegare, istigazione all'odio razziale, sembra ottimo sia questa la... Certo, hanno fatto la denuncia, hanno fatto benissimo. Una deputata del Partito Democratico che si chiama Sbrollini, sì, come no, certo, la condanna sia trasversale. Beh, ti credo. Il prefetto che dice uno può contestare ma dentro il codice penale ora, esatto, rischia la denuncia. Beh, appunto. Ipotesi, ripeto, istigazione all'odio razziale. Mi pare ovvio. Addirittura qualcuno pensa di commissariare il comune. Commissariare il comune, cioè per incompatibilità, come si fa con i comuni finalmente, mafiosi? Finalmente, no? Finalmente. No, non mi dire che sei d'accordo sul commissariamento. Ma assolutamente, perché il cioè, codice... commissariare il comune. Cioè, ragazzi, le leggi vanno rispettate. Ragazzi, su, fino non... a do... cambiate. Volete l'istigazione già, all'odio? Hai che già, l'istigazione hai già all'odio sputato razziale la sentenza, tu. Hai no, già detto. Ma ho detto hai no, già deciso al posto del giudice. Ho detto bene che si sia aperto un procedimento per capire se c'è stata istigazione all'odio ma razziale. Quale istigazione no, all'odio razziale? Non c'è uno, stata. Cioè, il diritto, io credo che ci sia il diritto al razzismo. Il diritto ad essere violenti a parole. Il diritto al razzismo. No, il diritto non è, il diritto è al un razzismo altro paese, non in questo. No, puoi andarci non è vero, a vivere. Ti sbagli. Non no, in io non vado paese a vivere, non mi frega niente. Esiste la legge in questo paese, esiste la questo legge. Questo è un altro discorso, deve essere provato. Quello deve essere provato. Quello ma deve più, essere più provato di quello che ha detto. Che cosa no, c'è da provare? È una cosa diversa. Quello si è detto apertamente razzista. Ecco, perfetto. Io non sostengo, si può. Non si può, non è dirlo. Non è vero. Non si può. Non si può dire tra essere razzisti e istigare all'odio ci sono, c'è una bella differenza, come sai, la procura, se proprio vuoi essere puntiglioso, se certo, proprio vuoi, infatti, essere, è giusto che abbiano aperto un'inchiesta, però giustissimo, so, mamma, adesso giusto o sbagliato che sia, ma mi pare ovvio, e c'è una notizia di reato di un signore che peraltro è anche un sindaco che ha detto delle cose terribili, inqualificabili, ma mi sembra evidente, no? Ma cosa c'è di strano? Si muove addirittura la Digos per Gio Formaggio, mi sembra adesso francamente un po' esagerato. Gli amici della Digos non me ne vorranno, per carità, non sono loro, non dipende da loro. Mi sembra dipende che dalle leggi, dall'applicazione delle leggi, non è comunque, che risentiamo tutto, vai, risentiamo tutto. E ti ricordo che abbiamo anche il poligono di tiro, il poligono più grande d'Italia e il più alto numero di porto d'armi di tutta la regione Veneto. E qua non vogliamo nessuno che venga a rompere i coglioni. Questo è stato l'esordio da parte di Gio Formaggio, sindaco di Albettone, la settimana scorsa alla Zanzara con grande scandalo. Pista di sci sintetica. All'inizio era divertente, Gio. Perché ad Albettone potrai sciare anche in agosto. Abbiamo inaugurato domenica la pista da sci sintetica più grande d'Italia e non vogliamo extracomunitari. Ma non riesco a capire il collegamento in realtà tra gli extracomunitari e la pista di sci, la pista di sci sintetica. Riempiamo le case di letame, vai. È un siciliano che ha tre case ad Albettone. Viene nel mio ristorante e mi fa: caro sindaco, ho deciso una cosa, dimmi. Ospitiamo 4-5 negretti e mi sono messo d'accordo con la cooperativa e ne mettiamo lì. Io ho detto: guarda che rischi grosso. Il giorno dopo vado a casa sua, mi offre il caffè e mi dice: sindaco, ci hai pensato? Ho detto: guarda, ho parlato con alcuni paesani e mi hanno detto che se succede una cosa del genere riempiamo la casa di letame fino al soffitto. Una casa piena di merda. O le muriamo o le riempiamo di merda. I cittadini del Bettone, nessuno affitterà mai niente a nessuno, perché ho già fatto il giro di tutte le case. Noi non li vogliamo. Dimmi cosa viene a fare un immigrato del Bettone che rischia la pelle. Allora, voglio capire che cosa significa questa frase: rischia la pelle. Questa è una delle frasi incriminate. No, perché che riempiono la casa, la murano, la riempiono di merda, rischia la pelle perché lo menano. Cioè, sta istigando la sua popolazione, i suoi concittadini, lui che è il sindaco, a fare le barricate contro delle persone. Cioè, a picchiare, no, fare le barricate le fanno pure a Gorino. Cosa vuol dire? Nessuno accusa. Rischia la pelle, ha detto, rischia la pelle. Qui bisogna dare peso alle parole. Ha detto rischia la pelle, perché se no, qualunque roba che si dice vale quei 30 secondi. Sto dicendo che non l'ha detto. No, sto dicendo che non l'ha detto. E hanno un peso, perché è anche un sindaco, peraltro, giustamente, non è che uno può dire quello che gli pare, sembra, non è che cos'è, però che c'è anche il diritto, c'è anche il diritto a essere razzisti, a essere razzisti, sì, ma come non no? In Italia, cioè, c'è il diritto mi dispiace a essere per razzisti. Te no, ma no, non no. Qua c'è il diritto ad a essere razzisti, no. Sì, oggi come no, non c'è nessun se diritto io dico, a essere razzisti, se io dico sono razzista non mi incrimina nessuno. Se io dico sono razzista, mi stanno razzista sui coglioni i negri. Se io lo dico, nessuno mi incrimina. Se io dico bisogna fare a pezzi i negri, sì. Questa è una cosa diversa. Sono due cose diverse. C'è io di quello Mancino sto parlando. La legge Mancino ti dice che è vietato proclamarsi sentiamo razzisti ancora Gio Formaggio. No. 3-4 mesi fa hanno messo fuori dei manifesti, sindacati, eccetera, hanno messo fuori dei manifesti con scritto comune razzista nelle tabelle dell'ingresso, no? E ho detto agli operatori: lasciatele là che capiscano che siamo razzisti, lo devono capire. Guardami, esportiamo cervelli e importiamo negri, pensa dove andremo. Qua facciamo il più grande allevamento d'Europa di maiali, se dovesse essere che vogliono aprire una moschea ad Albettone. Ciao, siamo in un paese libero, fortunatamente. Vabbè, sì, poi uno si assume la responsabilità di quello che dice. Ciao, che ci sia troppa democrazia. E che ci vorrebbe, scusa, lui? Ci vorrebbe lui? Lo zio Benito. Gli africani, i neri, sono meno intelligenti. Sentite, secondo te i negri hanno un quoziente di intelligenza più basso? Molto più basso. Molto più basso, sì, sicuramente non fanno, sicuramente non fanno piste da sci a Marrakesh. Questa storia dei negri che sono inferiori, che mi hai detto prima, sì. Perché? Ma perché di sì? Allora, è inutile che continuiamo questa menata che siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali. Ma come sono inferiori? Che vuol dire sono inferiori? Un cervello più piccolo, non ragionano meno, sono meno intelligenti. Che cosa hanno? È una questione etnica. La storia l'ha fatta l'Occidente e tra gli scienziati non ho mai visto uno di colore. E che vuol dire? Li ho visti correre, li ho visti vincere le medaglie correndo, ma mai nessuno... Giovanni Reggio Calabria. Formaggio, sì, prosegue dopo. Vai, Giovanni, dimmi. Allora, dimmi. Voglio parlare con te che sei un simpaticone. Sì. Ma con Vespasiano che ti sta a cae. È un nome di un imperatore, Vespasiano. Sì, Vespasiano Nolent, te lo ricordi? Sì, Vespasiano Nolent, certo, mise la tassa sui bagni. Bip, bip, bip. E riempire di contumeli quelli che parlano contro i neri, eccetera, eccetera. Ora loro, bella ciao. A ogni stesso spinto, Giovanni, però stai calmo, cosa vuoi dire? Spiegami niente. Bene, cosa vuoi dire? Ti voglio dire che voi a chi molla. Tu a Reggio Calabria dovresti ricordartelo, no? Sì, certo, anche tu nostalgico? Nostalgico? Tu? Io sono nato proprio fascista. Sei fascista, bene. Quando c'era lui, quando c'era lui. Beato lei. Quando c'era lui. Che c'era quando c'era lui? Non tornano, Non tornano più quei tempi, non tornano più. L'altra volta quando? L'opera maternità e opera nazionale maternità e infanzia. Ma chi se ne frega? Le pensioni. Ma chi se ne frega? Ora quella là ha fatto un guacciabuglio. Cioè si stava meglio quando si stava peggio, dici tu? Certo. Ho vissuto il dopoguerra. Benissimo. Daniele da Roma. Giovanni, comunque, sai qualche canzoncina fascista, la sai o no? Mi portare la sai cantare o no? Qualche rima, qualche suonatissimo. E allora vai. Ricordiamo i vecchi tempi, Giovanni. Vai. No, ecco, ti voglio dire l'etimologia. No, non me ne frega niente. Voglio sentire qualche suono dei vecchi tempi. Fammi sentire un po' qualche suono antico di un passato che non tornerà per forza. Questa sai che l'ha composta? Chi era questa? Giacomo Puccini. Era prima che parlasse Almirante, che io. Ma che c'entra Almirante? Daniele da Roma. Ciao Giovanni, Daniele da Roma, vai. Sì, pronto. Daniele, vai, sì. Allora. Il mondo è vario, vai. Daniele, dimmi. Perfetto. Allora, io volevo dire semplicemente una cosa. Sì. Noi ci troviamo in una situazione di essere razzisti al rovescio. Cioè? E Parenzo dovrebbe guardare quella travona che c'ha nel suo occhio piuttosto che la pagliuzza. Poi ti spiego il motivo. Ma perché? Spiegami perché. Prima senti quello che ti dico e poi vedrai accettare il dolce finale. Il discorso è semplicemente che è bello fare il gay nel sedere degli altri. Prendiamo tutti, facciamo ancora, tutti, però a casa nostra non facciamo entrare nessuno. Prima puntata, il discorso è che noi abbiamo grandissime situazioni, grandissime società che sfruttano petrolificamente, e cavoli vari, fanno fare delle guerre che servono a distrarre l'opinione locale. E dunque portano la gente. Presa larga, e noi diciamo. Importiamo questi profughi che sono povere persone. Adesso, mi sembra veramente che ha ragione Parenzo quando dici che l'hai presa larga, cioè le guerre provocate dalle multinazionali che portano i migranti in Italia. Dai, arriva la sterzata, quella diretta. Dimmi la sterzata. Noi a Roma vediamo tantissimi ragazzi di colore che purtroppo adesso ci troviamo, prima non erano. Daniele, così. Tu hai non hai il dono della sintesi, eh? Beh, te la do subito, davanti ai supermercati, davanti ai bar, tutti questi bei ragazzetti carini, vestiti bene col telefonino, che ti chiedono un euro. Prima, tempo fa, cercavano davanti ai supermercati, quelli che venivano da fuori, di darci una mano a portare almeno il carrello, che io non ho mai fatto portare, davo i soldi perché non volevo. Almeno allora finta. Allora finta. Che questi stanno meglio di noi, ancora non ha capito. Ma chi sta meglio di noi? Ti porta a casa i figli, oppure muore sul posto per difendere la famiglia. Non sei là a spasso per cosa? C'è il terremoto. Fermo lì, non si sente più caso. Si capisce. Altro che spa, zanzara tutta la vita. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Pneumatici invernali Yokohama V905. Metti i tuoi sensi in contatto con la strada. La Zanzara. Ciao, siamo due ingegneri di Bari e vorremmo dedicare un coro all'amico Parenzo che seguiamo giorno per giorno, e il coro è questo qui che segue. Mi diverto solo se, solo se ascolto la Zanzara, pungi bene, pungi male, con Parenzo in tribunale. Ciao, un abbraccio. Allora, grandi fan parenziani, ciao, sparsi, ragazzi, ciao. Sparsi ciao. In tutta Europa. Siamo sparsi. La maggioranza, siamo la maggioranza silenziosa, come da stile del vostro leader. Vabbè. Silenziosa, mai sopra le righe, tranquilla. Ma la maggioranza di questo paese, silenziosa, che lavora, operosa, che non rompe i coglioni, che non parte, non ha tempo di telefonare all'800240024 per dire che si apposta da un balcone con un fucile per sparare un migrante. Siamo altra cosa, bravi, siamo altra cosa, lo so, siete tanti, mi abbracciate, mi scrivete su Facebook, su Twitter, vi amo, sono qua, sono con voi, sono per voi a rappresentare questa voce, questa maggioranza silenziosa, pacata, di gente laboriosa che si alza la mattina, va a lavorare, ogni tanto va in qualche spa, ovviamente ogni tanto beve un bicchiere di champagne, c'è chi non lo beve, c'è chi si fa massaggiare con il caviale, ma siamo qua. Siamo qua per dire che siamo la maggioranza di camionisti, tassisti, gente per bene, gente che lavora, gente che non ha veramente, ha il telefonino ma non lo usa per denigrare, per sputtanare, per essere razzista. Siete la maggioranza, sappiatelo, lo so, lo so. Dite a Parenzo che siccome io ho un ristorante e sto lavorando invece di grattarmi i coglioni come lui, sono un miserabile, stronzo. Ah, Pare, cioè io ti voglio tanto bene, però ma te stai sempre a lamentare e me ne voglio andare, e la vacanza, e quando finiamo, e quello e l'altro. Oh, ma io sto 24 ore al giorno in piedi dentro l'ospedale a curare i pazienti e tu stai lì seduto senza due parole. E dai, Pare, fatte una canna prima di entrare in studio e non rompi i coglioni. Dai, dai, dai! Parenzo, un'altra ulteriore figura di merda. Complimenti. Il paese dell'accoglienza, apri case tue, e sottolineo case, ne hai tanti. Accogli questi bei africani, quelli che arrivano. Forza Parenzo, dai dimostrazione, fai venire fuori il filantropo che è in te, forza! Buonasera, sono uno dei miserabili. Lavoro oggi, lavoro domani, lavoro tutta la settimana per 1000 euro al mese, di cui 500 vanno a finire nelle casse dell'ex moglie per mantenere due figli. Quindi mi sento veramente un miserabile. Parenzo, io guido gli autobus. Oggi lavoro e lavoro anche domani. E sei te che non fai un cazzo, va bene? E non sono miserabile. E sono un autista, non un autista, come dice la Boldrini, cazzo. Però amico mio, mi rivolgo all'ascoltatore di prima, se te sei separato e devi dare 500 euro all'ex moglie, non è che è colpa nostra, eh. Informazione di servizio, non ho alcuna casa di proprietà al momento, è un'informazione di servizio. Vabbè, non è necessario, dai. Non informazione di servizio, non ho al momento alcuna casa di proprietà. Parenzo David, al momento è giusto dirlo. Allora, il proprietario dell'albergo, com'è che si chiama l'albergo? Ancora questo albergo? Sì, l'albergo. Lori. Tanto nel sito internet c'è scritto White House, cioè Hotel Lori. Casa Bianca. White House. È la Casa Bianca, White House, la famosa White House. Sì, è Casa Bianca, è la famosa Casa Bianca. Sarà il Night, no? Il ristorante si chiama White House. Casa Bianca è il famoso ristorante Casa Bianca. Gli americani ci vanno spesso, mi dicono. A fianco dell'Hotel Lori trovi il prestigioso ristorante White House. Che magari è buonissimo, per carità, non voglio dire... Allora, il proprietario credo che si chiama Foglio, lo chiamiamo, che dici? Mi chiamiamo Davide o no? Gli dai una telefonatina. Se necessario, se è necessario. Fogli, signor Fogli, anzi, avanti Riccardo con i numeri. Fogli conosco. No, che c'entra? Questo si chiama Fogli. Fogli Riccardo cognome. Fogli, appunto. Andiamo. Pronto. Fogli? Sì. Sì, buonasera. È Radio 24. Salve, Cruciani. Chi parla? Radio 24, buonasera. Buonasera, devo cantare? Beh, canti pure. Allora come facciamo? Facciamo una bella canzone, che ne so, una del ventennio magari. Non andrebbe male. Come fa? Faccetta nera, bella bissina. Dai, va là, lascia stare, scusa che... Le piace il ventennio, Fogli? No, piace al prefetto. Perché per quello, perché ha requisito il suo albergo? È l'ultima volta che aveva requisito, le aveva requisito Mussolini. Cioè, scusi un attimo, ma lei andrebbe requisito l'alcol, ma insomma da come parla. Scusi, parla, Fogli, ma lei all'inizio non si era messo d'accordo, non aveva chiesto informazioni per ospitare i profughi? Ecco, la seconda parte mi sta bene, ho chiesto informazioni e io mi messo d'accordo o no? Cioè, lei voleva ospitare i profughi, però in realtà non vi siete messi d'accordo sul prezzo, questa è la realtà. Mi sono informato, l'ha detto lei, con le sue parole, non io. No, si è informato con chi? Con il col viceprefetto. Col viceprefetto. E quanto le avevano offerto? No, l'offerta me l'ha fatta la cooperativa. Quanto era? 7 euro. 7 euro a profugo? Sì. Al giorno? Io dovevo pagare solo la luce, l'acqua, il gas e la wifi. E lei, wifi, sì. E lei come ha risposto a questa offerta? No. No. E poi è arrivata la requisizione? Esatto. Scusi un attimo, ma se l'avessero offerto di più l'avrebbe preso i profughi? Adesso lei mi fa una domanda che non lo so rispondere. Scusi, se si mette là a trattare, evidentemente per tutto c'è un prezzo. Non mi sono messo a trattare, lei sta sbagliando quella parola lì della trattativa. Ho capito, io non l'ho trattato. Ma perché chiede il prezzo? Io mi sono informato perché io volevo sanare i miei impegni e se io guadagnavo quello che poteva essere giusto lo potevo anche fare. Ho capito, dunque era disposto ad accettare i profughi. Non ero disposto. Allora io parlo in inglese. No, però scusi, parla male in italiano. Lei non capisce l'italiano, glielo racconti in inglese. No, aspetti un attimo. Allora, lei in questo momento dice che è disposto a incatenarsi, giusto? Sì. Ma che vuol dire incatenarsi? Cioè vuole impedire l'arrivo di 80 profughi nel suo albergo? Esatto, vuol dire quello. Quanto le danno adesso per questi 80 profughi? Ma non ne voglio neanche uno. Ma perché? Non ho capito, ma non ne vuole uno? Ma per quale motivo? Neanche uno, non uno. Ma perché? Per un motivo di principio? Per quale motivo? Perché ho capito, eventualmente, lo dico, qui lo dico, qui lo nego, di aver sbagliato anche solo nell'informazione. Ho capito, amico mio, se le davano 30 euro li prendevo o no? Ma lei è troppo... No, è una domanda, che sono troppo? No, nemmeno 30 euro. Allora, perché si è informato? Ma ascolti una cosa, ma cosa vuol fare? La causa all'intenzione, lei? No, ma a me è curioso, voglio capire... No, è curiosità, la salute è buonasera. No, fermo un attimo, Fogli! Guarda che è curioso pure questo, Cioè, si attaccano a me. Cioè, prima fa la trattativa, non è una trattativa. Mi sono informato, ma che cosa ti informi a fare? Per sanare i miei impegni. Cioè, sostanzialmente c'hai i debiti, no? Sanare i miei impegni, quello significa. Cioè, hai debiti. Strano, e tu è un albergo, è un night, è un ristorante. Ho capito, questo qua, insomma, per sanare i suoi debiti, per pagare i creditori, cosa fa? Chiede al viceprefetto, al prefetto, quanto mi date per i profughi? Dunque, non è che sia contro i profughi, no? Cioè, questi dicono, beh, amico mio, chiedi alla cooperativa. La cooperativa dice, beh, ti diamo 3, 7, quello che cazzo era. No, allora non li voglio. Poi dice, forse ho sbagliato pure a chiedere. Amico mio, per i soldi i profughi te li saresti messi dentro un albergo. Se ti davano 30 euro per 4 mesi, li avresti presi alla grandissima. Comunque, riproviamo, ragazzi. Dai, parlaci tu per adesso, Parenzo. Ogni volta è così, parlaci tu. Stavolta parlaci tu. Guardi, io sono una persona sono Parenzo, le chiedo scusa per la veemenza con la quale il mio collega Sì, eccoti, le rispondo aggredita. Solo per correttezza. Sì, no, no, ma le chiedo scusa perché il collega l'ha aggredita malamente. Lei non merita, perché mi pare una bravissima persona, un ottimo fascista, peraltro, quindi va benissimo. No, non quindi. Sono fascista. No, un neofascista, pazienza. Insomma, quello che è, comunque un miserabile. Vabbè, comunque prego, dica, scusi se lo ha. Prego, non prego. Ho detto niente, io ho detto soltanto. Mi incateno davanti al portone, si incatena. Si incatena davanti al portone. Scusi, voleva sapere anche se io come li considera gli immigrati, mi scusi? Dei poveri disgraziati. In che ma senso? Disgraziato è lei. Aspetta, disgraziato. In che senso? Gli poveri disgraziati, cosa vuol che ne dica io? Che ne so? Se mi vuol far dire, io non sono un razzista. No, no, ho capito, no, che non è razzista, no. Ma che vuol dire poveri disgraziati? Cioè, nel senso, secondo lei sono privilegiati? Poveri diavoli che sono alla fame, vengono qui alla fame da noi. Ma perché si incatena adesso? Ma secondo lei c'è posto in Italia? No. Non c'è. Perché se i soldi che danno gli immigrati li dovessero dare ai nostri giovani, sarebbe meglio. Staremmo meglio tutti. Dunque, prima gli italiani e poi gli stranieri, questo esatto, è il punto. Esatto. Ma questi qua sono veramente poveri, sono veramente disgraziati oppure in realtà. Ah, questo non lo so, guardi, perché viaggiano tutti con i telefoni che noi non abbiamo. E poi come sono vestiti? Ah, non lo so neanche, perché non li ho mai visti. No, e allora che ne sa che stanno col telefono, scusi? Come? Che ne sa che stanno col telefono, allora? So che hanno il cellulare perché mi hanno chiesto wifi per entrare. Ah, per le connessioni, certo, per le esatto. Connessioni. Non c'è dubbio. Scusi, ma lei ha un nightclub là? Magari le rovinano pure la clientela questi qua, se bello. Esatto, è anche un ristorante ciò. Per cui se arrivano questi immigrati fino ad aprile, mi sembra, no? Sì. Lei è rovinato? Sì, esatto, ma sono rovinato anche prima. Perché? Perché come arrivano mi hanno già fatto le disdette. Ma scusi, sto nightclub, che gente viene? Signore, lei è mai andato a night? No, ma potrebbero venire, potrebbe essere utile portare qualche extracomunitario al nightclub, è interessante, no, come cosa. Perché no? Che fanno? Ma dai. Perché dai, è ridicolo. Perché? Interessante. Parlare. Ma dai. Vabbè, magari è interessante. Ma lei dove si incatena adesso? Io poi non ho capito. Al nightclub si incatena, al palo del night, dove si incatena? Questo non ho capito io, francamente. Ma glielo chiedo con grande rispetto, sa. Dove si vuole incatenare? Pronto? Davanti al mio hotel. Davanti. C'è un cancello di chiusura. Sì. E io mi incateno lì, va bene? Però non foglio, avevo capito, pensavo però, davanti al palo del night. Che ne so io come fatto. Però Foglia ha ragione, perché a uno, casa sua vado. Però ha ragione Foglia. E io non perché, ho pali a casa mia. Però Foglia ha ragione, perché uno non può decidere il prefetto all'improvviso di requisire come? Un albergo senza il consenso. Non voleva, senza prima, il consenso, giusto Fogli? Prima non voleva, giusto Fogli? Ma mi pare che la Costituzione dica che la proprietà privata è sacra ed inviolabile. Ma che cazzo dice quel signore e lì? Allora lo mandi a fare in culo il prefetto, scusi. Caro sì, ma mi hanno già minacciato di chi? Essere chi? Per il signor prefetto mi ha detto che se vado avanti in questo modo mi denuncia. Addirittura, giusto? Addirittura. Allora, scusa, gli immigrati arriveranno o no? Che cosa le ha detto il prefetto? Non credo che arrivino. Come non credo? Allora, che hanno riusciti a fare l'albergo? Non lo so, si vede che vorrà venire lui con sua moglie. Chi? Il prefetto? Esatto. Comunque inciti alla rivolta, venite tutti davanti al mio albergo a proteggere, no, a proteggerlo. Lei va troppo oltre. Vabbè, arrivederci. Buona serata, ciao. Arrivederci. Ciao, ciao. Ma sai che alla fine non è male st'albergo, lo sto vedendo adesso, me ne sono quasi innamorato. Cioè, ristorante, pizzeria, White House. Sì, vai lì, hotel, è magnifico. Ma no, ma è stupendo, no, meraviglioso. E vai lì. In mezzo al Po, vicino. Stupendo, pieno di zanzare sicuramente, fino alla morte. Stupendo, meraviglioso. Francesco, Brescia, vai, Francesco. Ascolta. Dimmi. Hanno rotto i coglioni con questa storia di sti migranti. Intanto buonasera a te, ma parenzo, hanno rotto i coglioni chi? Sì, chi sì. Ha rotto come i coglioni? Come dice, scusi, non questi ho capito. Questi migranti e questi politici che li fanno venire qui, hai capito? Sì. Chi è che li fa venire qui? Scusi, mi faccia capire. Sterminato. Parenzo, che tu sei un grandissimo coglione, veramente. Chi è scusi, che va sterminato? Piacere, Parenzo. Scusi. Chi è che va sterminato? Aspetta. Mi dica, tu sei un cretino, Parenzo. Piacere, Parenzo. Sì. Chi è che va sterminato? Non ho capito, Francesco. Cosa? Innanzitutto i politici. Sì, che abbiamo vanno qui a Roma vanno completamente sterminati. Perché sono gente inetta, sono degli inetti, sì. Che ci stanno facendo invadere da questi mandri di pezzi di merda che vengono qui a violentare, a rubare, a fare, ma rubare, bisogna bruciarli. Adesso dimmi un'altra cazzata, bisogna bruciarli. No, non è una cazzata, non bisogna bruciare, che bisogna fare con gli immigrati? Bruciarli. Se tu mi suoni il campanello a casa mia vuol dire che mi stai avvisando che stai arrivando. Se ti trovo dentro, negro di merda, o chiunque altro tu sia, vai. Senti, Francesco, noi queste, queste telefonate qui, queste telefonate qui ne riceviamo diverse al giorno. Lo immagino. Sai che cosa? Sai che ci facciamo con queste telefonate? La tua, le buttiamo nel cesso. Perché sono finte. Sono finte queste telefonate. Sono tu sei un cretino, sei semplicemente un cretino. Sei un idiota tu, quell'altro. Sono telefonate finte, sono finte. Caro, non sono finte. Mettiti nel cesso, passa il tuo tempo in un altro modo. Si può dire quello che hai vuoi. Quello che vuoi. Non fa nessun effetto. Siete dei cagasotto. Sì, abbassa un attimo il volume a questo cretino. Abbassa il volume a questo cretino. Francesco, non fai effetto a nessuno. Cioè, queste telefonate finte, noi le annusiamo. È proprio a 1000 chilometri di distanza, capito? A 1000 chilometri di distanza. Le annusiamo. Sei un cretino, chiaro? Sei un cretino. Ti saluto. Sì, giù. Sei un imbecille, un cretino. Dunque, queste telefonate fake le riconosciamo come se fosse il nostro pane quotidiano. Non puoi venire a rubare a casa dei ladri, chiaro? La gente muore di fame, coglione. Sì. Coglione, stai rubando a casa dei ladri. Sì, bravo. Hai recitato bene, ma non troppo bene, però. Non troppo bene per fregarci, perché noi siamo più maledettamente più coglioni di te, capito? Cioè, siamo molto più sgamati di te. Claudio da Messina. Dimmi, Claudio. Mi sentite? Sì, sì, niente, il sottofondo, quello sta continuando la sua pantomima, la sua commedia. Claudio, vai. Volevo dire semplicemente che non capisco, pare, io sono un parenziano mancato. In che senso? Perché nel senso che una persona così intelligente, non comprendo perché si debba dire che lo Stato può espropriare proprietà private. Non esiste. Quando mi fai il paragone con la TAV, è sicuramente un bene collettivo, poi ci può essere più o meno d'accordo. Appunto. Però l'immigrazione non è un bene collettivo. No, ma nessuno infatti lo fa. Lo Stato quando è che interviene? Quando deve tutelare un interesse superiore. Non è la stessa cosa. Dai. Così, qual è la differenza? Ma mettere 80 che non vengono in un albergo? Espropriati degli alberghi. È sbagliata la parola. No, non viene espropriato nessun albergo. No! Perché l'imprenditore viene pagato per quel servizio che svolge. Mancherebbe pure. Come viene indennizzato il contadino della Val di Susa al quale viene tolto un pezzo di terreno. Ma l'imprenditore, l'alberghiero, poi si può essere più o meno d'accordo, ma riprenderà forse le spese. Ma non è un bene collettivo. Questi cristi vanno, secondo me... L'accoglienza è un tema di cui si occupa lo Stato. L'accoglienza va data nel momento in cui sbarcano. Va salvata la vita, certo. Vanno, esatto. Poi c'è il riconoscimento e già si deve capire lo status, perché è impossibile che quando facciamo i centri di accoglienza, io non sono credo, non sono razzista, ma non credo che se io entro clandestinamente negli Stati Uniti posso girare col permesso dello Stato. No, non puoi non farlo. Ti posso assicurare che non lo puoi fare, come in tanti, come in tanti paesi. Giuseppe, e dire che fare una cosa del genere in Italia è razzismo è la più grande follia che sia mai stata detta negli ultimi anni. In Italia non dovrebbe circolare nessuno senza una ragione precisa. Chiaro? Se c'è un deragliamento e sono sul treno, speriamo mai, è un esempio da comprendere. Guarda che anche in America esiste il diritto d'asilo, esiste una norma sul diritto d'asilo. Hai capito bene quello che sta dicendo Claudio? No. Non sta parlando di diritto d'asilo. In America esiste una norma sul diritto di asilo. Sta dicendo un'altra cosa, Claudio. Come esiste in Francia? Non si può stare sul territorio in nessun paese civile. Si dovrebbe poter stare sul territorio nazionale senza una ragione precisa, specifica e chiara. Sono qui perché devo lavorare, oppure me ne vado a fare in culo. Questa è la norma base, e dire una cosa del genere dovrebbe essere una cosa di sinistra. Ma infatti, di loro, sinistra. Ma infatti gli immigrati che vengono qui non vogliono stare in Italia, non vogliono andare a Ficul, come si chiama in quel posto? Da Ficarolo. Ecco, non vogliono Rovigo. Andare a Ficarolo. C'è uno da Rovigo. Cioè, non è che uno attraversa il mare con quelle carrette, attraversa sarebbe un pazzo. Se uno di quelli che attraversa per giorni e giorni e mesi affronta e fa imbarcare i propri figli su una carretta del mare, dice: dove volevi andare, caro? A Ficarolo. Lo prendono e lo mettono in un ospedale psichiatrico. A Fica, sì, però. Capito? Non vuole andare a Ficarolo l'immigrato. Fidati. Guido Rovigo. Guido. Fidati. Pronto, pronto. Dimmi. Pronto, buonasera, ciao. Sono Guido detto Lemmy il biker. Detto? Allora, io conosco detto? Lemmy il biker. Che cazzo ci frega a noi se detto Lemmy, scusa. Bene, non ho capito. Mi fa piacere per lei, ottimo. Detto Lemmy. Lemmy biker. Figaro, che vuol dire bunker? Non ho capito. Biker. Detto Lemmy biker. Vabbè, d'accordo, ci dà questa informazione. Va bene, benissimo, è felice lui, siamo felici anche noi, ottimo. Dimmi. Conosco Ficarolo, conosco l'Hotel Lori, un 3 stelle, un bel posto. Bene. Si mangia bene in ristorante. Ottimo. E se volete andare in night, specialmente tra i cruciani, ci sono dei gran pezzi di figa. Ma dove? Là, dove? Lì al coso? Alla, ma scherzi. A night dell'Hotel Lori? Al White House. Bah, adesso, White House adesso. White House, c'è grande figa, White House. Ma lì ci sono tutta gente che c'è un sacco di soldi, gente che ha un sacco di terra. Guarda lì, è tutta gente che sta bene, capito? Ti girano un sacco di soldi. Ho capito, ma se fosse così, perché il proprietario si è informato con il prefetto se poteva ospitare dei profughi? Perché? Questo lo devi chiedere a lui. L'abbiamo chiesto. Ecco, questo è il punto sul quale stiamo dibattendo. Fermo lì. Ho cacciato la mia ragazza dalla macchina perché parlava, invece io voglio ascoltare la zanzara. La zanzara. Comunque vorrei dire a Parenzo che io quando nato da Parese mi rilasso prima di andare a dormire un uomo di merda di Donato da Parese mi concilia il sonno. Ora vi lascio che ho finito e devo pulirmi. Ciao. Mi alzo alla mattina alle 5:15 e vado al lavoro tutto il giorno. Torno a casa la sera alle 8 e quando torno la goduria micidiale è ascoltare la zanzara, è il mio relax. Se volete dire come costruire barricate contro i migranti, o come fate pompini al vostro partner, o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 00 24. Se invece volete dire come cacate sul cesso, o perché le cinesi non lo prendono nel culo, o come sempre volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 7171 701. Siamo al toppissimo. Questo è un genio assoluto. Sì, questo è simpatico. Questo è simpatico, Gedeone. Finalmente da Parenzo arriva qualche leggero apprezzamento a chi lascia questo, messaggi. Questo è come dire, fa ridere, è ironico, è intelligente, è simpatico. Infatti sicuramente è un sostenitore del Parenzo pensiero, del mio movimento che nel 2017 si presenterà alle elezioni nazionali. Si chiamerà Italia una stella, sarà in contrapposizione. Crozza Razzi, senti. Una domanda che mi devi fare adesso è: chi vota le elezioni in America? Ma perché? Che senso ha? Non hai sentito cosa fa la Madonna quelli che votano Clinton? Sì, ma ha detto che. Sì, ma. A gratis. Sì, ma no. Ma non è una notizia. Fammi la domanda, amico. Fammi la domanda e ti do il 30% di tutto quello che mi fa Madonna. No, ma non mi interessa, dove si può. Yeah. Allora, scontro. Guarda, attento, perché mi sta scrivendo in diretta la ottima Gastaldini del nuovo centrodestra, la persona per bene. Sei sicuro che è del nuovo centrodestra? Sì, la Gastaldini. Sì. Certo, e che Gastaldini, ne so, io mi caso tutte le cose come te, della politica. Gastaldini, ottima, nuovo Gastaldini, sì. Allora? Del portavoce del nuovo centrodestra. Vabbè, allora? Che mi dice che sa tutto di questo albergatore cialtrone, sì. E quindi se vuole a disposizione per fare chiarezza su questo personaggio incredibile. E... era ospite pure a Quinta Colonna ieri sera, se non sbaglio, no? Signora Gastaldini, se non sbaglio. Sì, sì, mi pare di sì. Comunque mi si è scritto sotto. Sta dicendo che è uno che prima ha chiesto informazioni per prendere l'immigrato, adesso fa no, la rivolta. Ma sa tutto, sa tutto, ha tutti due cose, ha un identikit chiaro di chi è questo personaggio. Mi sta scrivendo. No, ecco, Cialtrone l'ha detto lei o l'hai detto tu? No, no, dico io. Ah, che ne so, pensavo che lei l'avesse detto lei, Cialtrone. Devi essere più chiaro. Comunque, intervengo. No, no, lei ha scritto su tutto l'albergatore Cialtrone. Intervengo, basta bugie. Quindi chiamiamola. Basta bugie subito. Su che cosa? Basta lei dice giustamente che? Intervengo, basta bugie. Chiamiamola un attimo. Adesso diamo il numero. Chiamiamo. Ce l'hai il numero a Gastaldini? Te lo mando? Chiamiamola. No, basta mandalo, bugie. Mandalo agli ragazzi. Basta bugie, dice. Oh, ottimo. Gastaldini, mandalo, se mi ascolti, adesso ti chiamiamo. Cara Gastaldini, è una brava persona peraltro. Ma non ti sto dicendo brava o cattiva. È una bravissima persona, la conosco. Portavoce del nuovo centrodestra, è una persona molto vabbè, per ma bene. Ma qual è il punto? Basta bugie su che cosa? Basta non l'ho bugie, adesso la chiamo. Aspetta. Hanno alla fine requisito un albergo, sì o no? La risposta oh, è mamma sì. Mia. La allora, proprietà adesso, privata dov'è? È Riccardo, sacra, sì o no? Riccardo sì. Poli. No, non c'è Poli, mandalo a Marchesi. Chi c'è? Marchesi. Laura Marchesi. Vabbè, intanto sentiamo che lo scontro. Ha il cellulare 349, ma no? Non lo so, giusto, non lo dire, 08. Non lo dire in pubblico. Ah, oddio, scusa. Mi dispiace, stavo per dirlo in pubblico il numero della Laura Marchesi. Mamma mia, che allora. Gaffo. Lo scontro tra Cito te lo e Ferrero. Oh mamma mia, ma c'è qualcosa di decente, qualcosa di normale? Senti, numero Cito contro Ferrero. Ferrero, sapete, rifondazione comunista, là comunisti, non mi ricordo più nulla. E Cito, quello che ha il vitalizio, anzi aveva il vitalizio, poi per le condanne, eccetera, gli è stato tolto il vitalizio. Ospite fisso dalla D'Urso per un motivo molto semplice, cari amici miei. Cioè, non è bizzarro, fa ascolti. Cito, con le sue follie, con la sua parlare tarantino, eccetera, tira sulla curva, altrimenti la D'Urso non è che lo invita a caso, non è che è presente sempre della D'Urso così, certo. Per grazia ricevuta, perché vedono le curvette e vedono che certo, il format Cito contro qualcuno porta denari, da ne. Voi difendete i vostri privilegi. Sì, quale privilegio? Quale privilegio? Sì, e lei sta difendendo, quello, effettivamente, non sta difendendo quei cittadini che non possono mangiare e che non hanno soldi. 37 euro al giorno possono mangiare 4-5 persone e rimangono pure un giorno dopo. Sì, ha capito o no? Sa che cos'è? Sa che cos'è? Che lei continua, come tanti altri, a farsi schermo dietro gli immigrati. Perché cosa? Per non toccare i privilegi dei ricchi e della gente. Per 10 anni ma che l'avete inguagliata! L'avete inguagliata! Oltre 40.000 persone, capito? Non ho governato Taranto. Ma fammi un piacere! Buonanotte! Ma vi dice che sei com'è? La cosa incredibile è che Cito dice che ha varie condanne, eccetera, eccetera. Quello che si vede a Ferrero, avete inguaiato l'Italia. Avete inguaiato l'Italia. Per cioè, fortuna quel personaggio lì è sparito da qualunque. Incredibile, incredibile. È sparito da qualunque ruolo politico centrale, diciamo, senti, per cosa di governo. Cito, che dice e i ricchi, sono ricchi e troppo ricchi. Ti piacciono i ricchi? Troppo ricchi. Voi vi coprite la coscienza con la questione degli immigrati e fate vergogna. Mi dormi. Dormo. Vai a dormire. La mamma ha fatto le gnocche. Sentiamo la che ha fatto le gnocche, le mangia il bodazzoggito. Voi pensate che facendo questo taglio noi abbiamo tolto la povertà dall'Italia? No, però no, sa, voi vi rendete conto? Vi rendete conto che c'è la gente che abbiamo muore di fame? Vi rendete conto che abbiamo effettivamente la gente non può mangiare? Sì. Come hanno detto questi signori che stanno da quell'altra parte, queste sono chiacchiere che dicono questi qua. Ma fanno piacere! Questi non hanno capito niente! I vostri privilegi. Questo dice sempre una sola cosa, ma fammo piacere! Cito. Dove tutte le città d'Italia ci sono gente povera, come esatto. Quelle persone che dormono in mezzo alla strada, gente che non può mangiare altro che due pasti al giorno, sì. Questi qua vengono vestiti con la roba firmata, o telefonino, come si chiama? Mangiano, bevono e dormono e non sappiamo chi sono e girano nelle città. Questa è la triste realtà. Cioè, Cito che se la prende con gli immigrati. In alcuni momenti vorrei essere dalla parte degli immigrati, stavolta è succito. Cioè, al telefonino, vestiti firmati e non sappiamo chi sono i migranti. Signor Cito. Ah, Franco Roma, vai, Franco. Franco. Sì, pronto, buonasera. Pronto, mi senti, Giuseppe? Sì, ti sento, dimmi. Sì, buonasera, dai, stavo pensando a quello che sta succedendo, dai, un po' tutto. Dimmi, stiamo tornando allora... stiamo tornando indietro, dai, stiamo riprendendo le proprietà private, dai, ci siamo. Un'altra spintarella ritorna zio. Dai, ci siamo. Ah, tu dici che sei d'accordo allora, paradossalmente. Sei d'accordo perché fra poco torna zio. Sì, fra un po' ritorna zio. Sì, dai, noi stiamo requisendo le proprietà private. Dai, ci siamo. Dai, un altro po'. Io penso che un altro po'. Hai sentito quel ministro israeliano che ha detto che il terremoto è venuto perché Vice ministro. Noi abbiamo dato ragione all'UNESCO? Ha sentito? No, veramente... Bello. Quello pure è un bel messaggio, dai. Un bel messaggio. Non ho capito. Dai. Stai dicendo cose che già sappiamo, Franco. Esprimi un tuo parere. Qual è il punto? Quello che è stato detto stasera si sa già nel mondo. Non si sa. Ma cosa sei? Visto che Parenzo paga le tasse, perché non aumentano un po' le pensioni a posto di dar da mangiare a questi extracomunitari, a sti zingari, a sti rom? Aumentassero un po' tutte le pensioni, cose che non ho mai sentito, però queste qui cioè, tu dici più pensioni meno soldi agli immigrati, più pensioni ma molte no più soldi alle pensioni, un po' più di lavoro agli italiani e tanto gli immigrati non devono più entrare. Che no, cazzo vengono a fare in Italia? E dai, che cosa facciamo con gli immigrati? E se arrivano, una volta che arrivano e sbarcano, secondo te non li dovremmo nemmeno prendere? No, rimettiamo subito. Hai visto sul telegiornale? Ma anche, ma io direi. Che cosa hanno fatto a quel ragazzo di 19 anni? Per telefonino, hai visto che gli hanno fatto? Sì, ho visto. In quattro l'hanno aggredito, in quattro. Sì. E che ci dobbiamo fare noi di questa gente? Però, che scusami, allora io direi, invece, scusa, allora, direttamente con la Marina Militare spariamo ai barconi. Direttamente, allora è più semplice. Ah, non è sbagliato quello che è successo. Che è successo? Non è sbagliato, no, certo. Sbaglio, non è sbagliato. Tipo, abbiamo sbagliato. Scusate, cioè, tanto l'abbiamo affondato qualcuno. Tu dici dai. Meglio affondare i barconi a questo punto? Sì, è meglio affondarli. Ha visto a Calais quello a Calais pure che stava succedendo? A Calais, che c'entra a Calais? Lì c'era un coso, hanno sgombrato un campo. Che c'entra? Però gli hanno dato fuoco. Peccato che scappavano. No, vabbè, Franco, non puoi dire peccato che scappavano. Dai, perché chi l'ha acceso i fuochi? Chi l'ha acceso? Vabbè, dai, Franco, peccato che scappavano significa che tu volevi farli bruciare dentro il campo. Che cosa ci stanno a fare? Ma che c'entra? Ma ho capito, amico mio. Tu sei razzista, questo è il punto. Sì, tu sei razzista. Mica ci vuole tanto da capirlo, no? Ho capito. E te ne vanti pure, sono razzista. Che devo fare? Se sono razzista, tu sei quello è comunista, io sono razzista. Qual è il problema? Cioè, proprio odi i negri, tu odi i negri. Ma io non è che sono loro che sono neri, purtroppo, non è colpa mia. Questa è una vecchia battuta. Scusami, Franco, tu hai una figlia? Sì, sì. Quanti anni ha tua figlia? Una 37. Sposata? Sì, sì. Pensa se si sposava un nero. Non ho capito. Pensa se sposava un nero. Io la cacciavo da casa. Sì, come film, mi porti a casa un nero, io te caccio da casa. Ma dai, Franco. Questa è l'Italia migliore, così detta. Io ho visto solo, conosco 3-4 amici che si sono prese le rumene. Si sono prese le rumene. Si sono prese le rumene. Così come al mercato. Si sono prese le rumene. Ci convivono, non che hanno sposato, ci convivono. Perché con la rumena non te la puoi sposare. Hanno altre mentalità, sono ortodossi, hanno altra vedute. Ma veramente è pieno di gente che sposa rumene. Loro sono nati sotto al comunismo e il comunismo non se lo levano dalla testa ancora. Vabbè, allora non ho capito. Dunque, ho fatto un'analisi anche sociologica. Io non ho capito l'altro. Siccome sposano le rumene, allora, o comunque convivono con le rumene? Niente, convivono con le rumene, non è che se le sposano, ma dopo 3-4-5 anni ognuno sta per conto. Comunque guarda che tu meriteresti che tua figlia si sposasse, lasciasse il marito, il fidanzato che ha adesso, e si mettesse con un nero. Perché? Sarebbe una bella. Se a tua te porta un nero a casa, sei contento? Ma non me ne frega, figlia, non me ne frega niente. Grazie al cazzo, a te che te ne frega da famiglia, hai lasciato tua moglie, scopi come il matto, come un riccio, non c'hai problema di niente, puoi stare preoccupato di tua figlia. È impazzito, è impazzito, Franco. Ma che sei scemo? Non ce l'hai, tu c'hai avuto una famiglia. Una famiglia perché forse. Ma fate i cazzi tuoi, ma fate i cazzi tuoi, sei scemo. Come sei. Tu mi puoi dire che io mi fia se devi nero, io te posso dire. Ma che no, ma io. Io ti ho detto questo come fai a dargli torti. Io ti ho detto, semplicemente che a mia figlia, se sceglie un nero, a me non me ne frega niente. Sceglie chi vuole lei, che sia nero, bianco, giallo. Ecco, speriamo che tua figlia ti porta un nero a casa. E ma chi se ne frega, va bene, mi porterà un nero. E vabbè, allora, intanto che se solo vuole sposare oppure vuole stare con un nero, pazienza, con un immigrato. Pazienza, non è che la caccio come la posso cacciare da casa, è mia figlia. Ma se io potessi imporre, io non vorrei. Ma quando mai? Ma quando che stai a dire? State zitto, non devi sempre stupidare. Ah, oggi te la pigli con me, no, con Parenzo, però, come mai? Ma ogni tanto, ma Parenzo ormai se sappiano tutti con lui, capito? Sì. Perché non c'è più divertimento con Parenzo, non mi ci diverto più, dai. Ciao, Franco. È passato di moda, è passato di moda, come sua moglie. Ciao. Lores da Vicenza, io ti amo. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta La Zanzara. I've been driving on that man's wet on the wheel. Gentili telespettatrici e telespettatori, buongiorno e benvenuti a questa edizione mattiniera del TG Brains. La notizia di stamani è che oggi c'è seno, domani puro. Chi ce va male? Chi ce va male sa gli angeli puro. Buona giornata. Allora ragazzi, questa sera abbiamo parlato del mistero dell'hotel Lori, caro Parenzo. Hotel Lori che si trova in un posto che si chiama, com'è che si chiama questo paese? Ficarolo, sì, su cui sono sprecate le ironie pure di Sgarbi ieri sera, eccetera, eccetera, provincia di Rovigo, il quale ha ricevuto dal prefetto un ordine praticamente di requisizione, cioè è stato requisito a disposizione fino all'aprile del 2017 per ospitare 80 immigrati. Ora, che cosa è successo? Ovviamente uno dice la proprietà privata, eccetera, io sono il primo a dire. Sembra però che questo signore, il proprietario dell'albergo, abbia trattato, l'ha detto pure lui, anche se non vuole dire trattato, abbiamo sentito prima, no? Ha detto, ho parlato col viceprefetto, mi hanno offerto dei soldi, ho detto di no, poi mi sono pentito, eccetera, eccetera. Adesso ci racconta la sua versione, o comunque quello che ha sentito dal prefetto, quello che ha saputo, la portavoce del nuovo centrodestra, l'onorevole Valentina Castaldini. Buonasera, buonasera. Salve, buonasera, non sono onorevole innanzitutto. Salve, come buonasera. Scusi? Non è onorevole. Non sono onorevole. Ma non è onorevole, va bene. Le cose come stanno, visto che la verità va detta, così avevo voglia di raccontare. Allora, che è successo? Raccontare. Ma è successo semplicemente che in realtà il signore, come ha trattato, è andato più volte dal prefetto, risulta che anche in questi giorni in realtà il prefetto, che è stato molto attento alla situazione perché ha partecipato al consiglio comunale, ha parlato col sindaco più volte, e il proprietario ha trattato come, solo che si aspettava una cifra, la cifra non era quella, per cui c'è stato un tiremolla vero e proprio, con cifre anche volute, insomma lui sostanzialmente voleva i famosi 35 euro che si danno agli immigrati, ma chiaramente la gestione non è dell'albergatore ma è di una cooperativa che poi gestisce anche i pranzi, perché al proprietario viene pagata l'utenza e le stanze, che non erano assolutamente occupate come viene raccontato, cioè erano vuote, libere, erano vuote, assolutamente vuote. E l'altro aspetto molto importante è che non si sta parlando di 80 persone ma di 40 persone, per cui in questo momento la trattativa è assolutamente in corso, perché il prefetto sta ancora trattando questo signore. Questo signore ha di fatto un atto formale, che è la requisizione fino ad aprile, cioè sostanzialmente quando l'albergo non è occupato da persone. Ma perché? E perché a lui verrà dato un indennizzo economicamente, lui aveva dato... Certo, economicamente come sta messo questo signore? Ma, questo lo raccontano anche i giornali, ci sono sue interviste anche dove racconta. Sì, ha detto anche a noi, ha che detto l'albergo non va bene, cioè che l'albergo che c'era una situazione non positiva. Dovrebbe ringraziare gli immigrati questo signore. No, però scusi un attimo, adesso mettiamo che sia così. Questo furbetto qua, furbettino. Mettiamo che sia. Allora, Castaldini è la portavoce del nuovo centrodestra. No, ma io non ho dubbi che sia non così. Non è deputato, perché dimostra che la politica la puoi fare, no, va detto, anche senza essere in Parlamento. Andiamo al punto. punto, dai. Questo è il punto, questo è il punto. Andiamo vero. Al punto fondamentale. Allora, anche fosse vero che questo qua ha trattato. No, anche fosse. No, mettiamo che è vero, no, non è vero. Io ci credo, io ci credo, ha trattato, l'ha detto pure lui, ha trattato. Ma scusate, ma qua non siamo in Russia, cioè le proprie proprietà, questo messaggio deve passare. No, ma beh, scusi, che non esiste lì. Al mondo. Però alla fine gli hanno requisito. Come Goro è proprietà della provincia, capito? Poi cosa è proprietà della provincia? L'albergo Goro, è proprietà sua, no? L'ostello di Goro è proprietà della provincia. Questo albergo è suo, ma è suo, di una responsabilità totalmente sua, perché è andato a trattare in presenza ho di capito, altri, ma anche se uno, atti scritti. Ma capito? Anche se uno tratta, scusi, onorevole Castellini, anche se uno tratta, e vabbè, però sicuro che non racconti la verità che sta ancora trattando, ha trattato fino alla fine. Cioè, era vuoto, a un certo punto io ti lascia facciamo perdere. Un favore, ma se quello alla fine non vuole. I soldi, ma che cosa vuoi? Ma se quello non vuole alla fine... Questo è il punto, perché il 7 novembre ci sarà di nuovo, ancora una volta, in Veneto in particolare, un incontro con tutti i sindaci, dove su 50 comuni, invece che gli 8 poveretti che si ritrovano... Ma quello è un altro discorso, però. Sarà un altro discorso, però... No, ma quella è un'altra cosa. In una situazione di emergenza temporanea, assoluta... Però, Castaldini, mi scusi, un attimo, il punto non è tanto quello che succederà e i sindaci, no, è importante i sindaci quello. O gli operatori, quanto offriranno le proprie come no, dire, i propri alberghi, eccetera. Va bene, ma quello siamo d'accordo, non è quello il punto. Il punto è un altro. Se questo alla fine ha trattato, ma non vuole, siccome l'albergo è suo, può fare quello che vuole. La requisizione di un albergo, cioè di una struttura privata, resta comunque un atto gravissimo, una vergogna. Questo è il punto, o no? Io non riesco a capire. Lei è d'accordo? È d'accordo col prefetto che ha requisito l'albergo? Sì o no? Io sono d'accordo col prefetto che trovi una soluzione più presto. No, è d'accordo che ha requisito sul fatto che ha requisito l'albergo, sì o no? In questa storia non c'è la trasparenza, perché no, ma lasci perdere, è d'accordo o no? Grande, ma vabbè, voleva e poi alla fine non ha più voluto, è d'accordo o no? Allora, no, le cose vanno condotte fino alla fine. Ma guarda che è incredibile. Ma se io ho una cosa mia e non la voglio più dare, anche se divento pazzo e non la voglio più dare, sarò padrone di farlo o no? Ma lui era d'accordissimo. E invece dopo ci ha ripensato. L'albergo fosse requisito. Ma se lui dopo... era d'accordissimo. Scusi, ma è così. Se scusi, lei è a casa sua e decide di venderla, tratta il prezzo fino alla fine e poi si tira indietro. Non è che gliela requisiscono, scusi, signora Castaldini. Se lei è a casa sua. Ma diverso, perché Cruciani, è diverso? Perché? È diverso, Cruciani, perché sostanzialmente la legge prevede la possibilità. Nel momento in cui c'è una disponibilità di un proprietario, infatti... che ancora in questo momento sta trattando, cioè io sono davanti a un notaio, capito? Dove dico, ma vorrei forse un euro in più, però forse un euro in meno. E lo Stato può requisire l'albergo. Fa il furbetto. No, fa il furbo. Ma che lui faccia il furbo, ma è un suo diritto fare il furbo, l'abbiamo sentito anche prima. Sulla pelle degli altri, perché un conto quando io vendo la casa Milano Marittima, perché non ne ho più voglia di andarci, un conto è quando si tratta di una storia che coinvolge un sindaco, un prefetto, lo Stato, i cittadini di quella città lei veramente è un... Scusi, non riesco a capire, questo qua è l'albergo, è suo, sì ma o no? Ma l'albergo viene con l'albergo ci fa quello che vuole, lo mette anche a ferro e fuoco. Scusami. Mi segnalano giustamente per i terremotati, in caso di terremoto ad esempio, no? In caso di terremoto ci sono alcuni albergatori dell'Abruzzo che avevano l'albergo vuoto, che hanno dato ospitalità ai terremotati. Qualcuno lo ha fatto gratis perché ovviamente c'è una ragione del cuore, altri sono stati indennizzati per aver ospitato. Ma sono cose diverse, sono persone, non cose diverse. Ci sono altri 40.000 posti dove mettere, noi in un albergo privato requisendo l'albergo privato contro la volontà del proprietario. Comunque dai. Non è che è requisito. Come non no? È requisito. Cioè l'ha detto pure la Castaldini adesso. Castaldini non so cosa dice. Stiamo parlando di una non di un esproprio, di una requisizione di un immobile dove il proprietario requisizione quello detto fino ad aprile 2017. Ma non mi interessa, può anche un momento, l'esproprio è una cosa importante e diversa. Assolutamente. La facemmo noi negli anni 60, è una cosa straordinaria l'esproprio proprietario. Il proprietario sta trattando, sta facendo il furbo, è suo diritto, è suo diritto farlo. Ma non è un esproprio, se ti pagano una pigione non è che ma nessuno parla di esproprio, lo stanno pagando forse neanche quanto lui voleva comunque, essere pagato. La cosa incredibile è che abbiamo capito che la portavoce del nuovo centrodestra è a favore della requisizione di proprietà private. Assolutamente no, di proprietà, come no, non c'è requisizione. L'ho appena detto, sociali, non sta requisizione di proprietà private. Ma requisizione in caso di urgenza di proprietà private. Quello sta dicendo, come no? Ma come no? È a favore in caso di urgenza, in questo caso no, lei lo reputa di urgenza. Perché il proprietario vuole, ma non vuole, l'ha sentito prima, non vuole. L'ho sentito. Perché fino a oggi ha parlato con quel prefetto, ha capito? Ma parlare è una cosa. A questo punto ha trattato seduto a un tavolo, sta facendo il doppio gioco. Questo ti sta dicendo, sta facendo il doppio gioco, cioè sta facendo da una parte la lamentona e non esisterà mai al mondo esisterà una requisizione di proprietà privata. E come no? E questo di che si tratta? Questa è una requisizione. Scusi, se il proprietario dice salve, sto trattando e vorrei. E allora perché me lo intanto perché me lo requisisci se non ci mettiamo d'accordo sui soldi? Prima che ci mettiamo d'accordo sui soldi non potresti fare nulla. Ma che ci dice d'accordo? Soldi sono quelli, requisiti in questo momento. È requisito in questo momento. Beh, sì, domanda. Certo, lei l'ha detto. C'è un ordine di requisizione. Il prefetto l'ha detto pure lei. C'è un ordine di requisizione. Non sta succedendo niente. Quello è un altro discorso. Che vuol dire che la politica in questo momento sta forse funzionando o no? C'è qualcuno che sta parlando, e che c'è il sindaco che sta cercando di parlare. Però cerchiamo di... Che nessuno dice le cose come stanno. Scusi, però mi sembra una cosa molto chiara. Lei sta dicendo una cosa: che siccome questo qua sta facendo il furbo, siccome questo fa il furbo e sta trattando, è giusto che il prefetto faccia intanto un ordine di requisizione, giusto o no? Questo è accaduto. Ma scusi, ma lei è a favore dell'acquisizione di una proprietà privata? Non c'è l'acquisizione. Ma dai, ma Crossari, in che mondo? Ma scusi, cioè, sto dicendo la verità, cioè che in questa storia spero che emerga la verità, perché ci vabbè, sono quello parte sta trattando, scritte. Sta facendo il furbo. Allora, io con le cose mie, onorevole, è uguale. Signora Castaldini, io con la proprietà privata, con le mie cose, faccio quello che anche ma mettere sono a ferro e fuoco un albergo. Ecco, questo meno, perché dopo no? È un problema. No, ma quello è un problema dei vigili del fuoco, i pompieri. Poi arriva lei, poi va bene, ma quello è un altro discorso. È una metafora. Però, ha capito? Con la mia proprietà faccio quello che voglio. Poi tratto fino all'ultimo centesimo quanto mi pare, come farebbe lei con le cose sue. E intanto mi requisiscono la casa. Lei è d'accordo su questo? Con la requisizione di una casa. Niente, ti ha appena detto che chiunque può andare in quel posto là. Non c'è nessuna. Cosa c'è la polizia lì davanti che non fanno entrare i potenziali clienti di quell'albergo? C'è un ordine di requisizione, però. C'è un ordine, un'intimazione. Lo stanno ricattando. Ma chi lo sta ricattando? Il prefetto. Proprio perché. Ma se questo c'ha i debiti, scusi, che è colpa sua? Del mondo, più corretta. Non lo so, ma lei è di Ferrara? Io sono bolognese. È di Bolognese, Ferrara. Scusi, di Rovigo, quello che è là, dove sta sto posto? Conosce il prefetto di Rovigo? Sì, è una gran brava persona. Intanto requisisce. Tutti i giornali locali sottolineano proprio questo. E intanto fa un ordine di requisizione per una struttura privata, punto. Quello è sicuro. Un ordine di requisizione. Ma quale ordine? Ragazzi, ma allora, veramente incredibile. Non, nemmeno questo è vero. Ha emesso, l'ha detto pure lei, un ordine ancora non eseguito di requisizione di una proprietà privata. Avrà avviato con il proprietario che dice: a me va bene che venga requisito. Ma scusi, l'ha detto tre secondi fa, io sono sicuro, adesso fra poco lo richiamo. Ma l'ho sentito adesso il proprietario, l'ha sentito anche lei alla radio. Crociani, mi ascolti bene. Io sono certa che lei ieri quinta colonna non l'ha vista, ma non l'abbiamo. Ho sentito il proprietario adesso. Ha capito? Il proprietario ieri ha giurato su Dio, sui suoi figli. Di che cosa? Cose tutte che possono essere negate, ma non con le carte, capito? Con i testimoni che c'erano. Ma che cosa? Che cosa ha giurato? Non aveva mai visto il prefetto, che non aveva mai trattato. Ma quello ognuno fa i cazzi. C'è il diritto di dire bugie o no? C'è il diritto di dire bugie o no? Qualsiasi cosa al mondo. Ma io francamente tra lo Stato, tra il prefetto, io francamente tra la verità del prefetto e la verità di un signore, vergognatevi, che va contro la proprietà privata, siete contro la proprietà privata, vergognatevi. Ma io credo c'è il diritto a dire le bugie, non vedersi nello Stato però. In mezzo c'è una storia così drammatica. Ma chi se ne uno può dire? Io me ne sbatto i coglioni di 40 immigrati, signora allora, Castaldini. Va bene, però. Scusi un attimo, il proprietario di un albergo io credo al funzionario dello Stato, ha il diritto di dire me ne sbatto, scusi la parola, qua si usa, me ne sbatto le palle di 40 immigrati. Chiaro? Non lo può dire a lei, a Cruciani, alla Zanzara, così gli amici a casa lo ascoltano. E dopo al prefetto dire un'altra cosa. Ha capito? Cioè, questo è il punto. Perché no? Lo accusi di spergiuro. Lo accusi di spergiuro. Lo accusi di spergiuro all'autorità giudiziaria. Ma scusami, allo italiano bisogna dire la verità. Ma la cosa è ancora più semplice. La cosa è ancora più lineare e semplice. Se questo furbetto dell'alberghetto è andato dal prefetto e ha detto: guarda, io metterei in disposizione il mio albergo, quanto mi dai? Ma dice 35, no, voglio 48. Il prefetto attiva una pratica per, come dire, mettere in gestione quell'albergo, no? Quell'altro allo stesso tempo, una volta che ha parlato col prefetto, va in televisione, dice, allora, siccome non gli vogliono dare 35 euro, ma gliene vogliono dare tutto il diritto di trattare finché vuole, è roba sua. Ma il prefetto che è un funzionario dello Stato, ma il prefetto che è un funzionario dello Stato dovrà stare a quello che gli ha detto a quattro occhi questo signore furbetto. Grazie, arrivederci. Parenzo, io oggi ho lavorato e mi sono fatto un culo così. Miserabile sarai tu. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Pneumatici Invernali Yokohama V905. Metti i tuoi sensi in contatto con la strada. La Zanzara. Libertà di parola, libertà di pensiero, libertà di Zanzara, vai Cruciani, grande Gio Formaggio. Allora andrei in provincia di Campobasso da Mido, che è un nome egiziano se non sbaglio, no? Mido. Io conoscevo Remida, ma... Remida che c'è? Non credo che abbia relazione con questo signore. Oh. Buonasera. Dimmi. Allora, Cruciani, sì, sono Mido, egiziano il nome. Mido era un giocatore egiziano, giocava nell'Ajax, poi nella Roma, poi era forte, non c'entra niente. Esatto, lo conosco. Era forte, poi sì, infatti, sono italo-egiziano. Sei italo-egiziano, allora? Allora, dovrei parlare, che sarebbe del mio paese, Termoli, sì. Una provincia di Campobasso. Termoli, conosciamo bene, sì. Molto bene. Un prete gay... Un prete che non mi lascia in pace, diciamo. Cioè, in che senso? Spiegaci bene. Allora, c'è un prete gay a Termoli. Vabbè, i preti gay esistono un po' dappertutto, diciamo, no? Come un po' di più forse del tasso, della percentuale che si può riscontrare in tutte le formazioni sociali, così si diceva quando si studiava all'università, cioè tra, che ne so, gli avvocati, i giornalisti, eccetera. I preti sono forse il tasso di gayitudine nei preti è leggermente superiore. Vabbè, Mido, insomma, c'è un prete gay a Termoli. Puoi dire in quale chiesa? Non vorrei dire la chiesa, giusto per non crearlo problemi, perché... Comunque vabbè, andiamo avanti. Allora, dunque, va bene, io lavoro su un fast food sul lungomare. Tu lavori in un fast food sul lungomare di Termoli. Sì, esatto, è passato questa persona qui col collare da prete. Da prete si chiama la cosa, non è che il collare di cui vabbè, il collare, sì, è quello che ti mette sulla camicia, insomma. Cioè, e iniziato a parlare così, come ti chiami, eccetera eccetera, e poi ha detto: dai, scendi giù che facciamo una foto insieme. Ha detto: va bene, facciamo la foto. Quindi ho visto, quando facciamo la foto, mi ha messo le mani sui fianchi. Bene, dunque? Dopo, il giorno dopo è passato, che fai? Usciamo una cena insieme, andiamo al mare, passiamo una giornata al mare. Anche tu sei gay? No, non sei gay. Vabbè, sono sposato e ho pure due figli, quindi... E non sopporti manco i froci magari, no? No, nel senso, non le sopporto se ci provano con me, ma come amici così va bene. Come amici va bene. Sei islamico? Sì. Credente? Sì, sì. Cioè credente nel senso di quelli... Non praticante. Vabbè. Esatto. Vabbè, allora cioè, bevi alcohol, fai il cazzo che ti pare. Sì, anche tradisci tutto. Tua moglie, fai tutto. No, quello no. Adulterio, mangi il maiale, fai qualsiasi cosa. Sì, quello sì. Fai tutto quello che fai. Sei così, diciamo, un islamico alla carte, come dire, alla carte. Sì, molto sì, leggero, sì, molto soft. Ma è giusto così, per carità, va benissimo. Vabbè, allora, insomma, sto prete. Allora, questo prete, poi da quella volta che abbiamo fatto le foto, che tutti i giorni sta sul mio posto di lavoro. mi aspetta, mi fa delle proposte, andiamo a mangiare la pizza, andiamo così, andiamo a fare un'altra foto, mi toccava. Una specie di stalker praticamente. Sì, esatto, esatto. Poi allora... mia moglie fa la parte che è gelosa. Okay? Beh, gelosa il prete però. Però scusami, aspetta, sì, un attimo, gelosa. Fino a dove è arrivato questo prete? Questo prete fino ha chiesto a qualche persona che conosco per il mio numero di telefono. Ma addirittura si è fissato così sto prete? Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Dice che mi ama. Ma non capito perché chiama noi, però, scusi. Però, scusami, Mido, ma... No, io dico, dove sta il Papa a lasciare questi preti così ancora in chiesa? Vabbè, ho capito, amico mio, però non sta facendo niente di particolarmente drammatico, mi sembra. Cioè, certo, ha ancora la tonaca, non sono comportamenti sicuramente consoni al fatto di ecco, un prete, questo non c'è dubbio, per carità. No, questo, un prete che viene sul tuo sì, posto d'accordo, però lavoro, non è che ti ha detto, amico mio, appartiamoci un attimo che ti prendo l'uccello in mano. Cioè, non è arrivato fino a questo punto. No, l'ha detto. Che ti ha detto? Non ho capito. Ha detto che lui mi fa stare bene, che mi fa tutto... E poi mi diceva, io ti faccio il bene e il contrabbene se vieni a confessare da me in chiesa. Che ha detto il pene e il contrapene, cioè il pelo e il contropelo, no? Il pene e il contropene. Sì, esatto. Però ha detto un'altra cosa al termine della chiesa. Cioè, non ho capito, ti ha fatto delle proposte esplicite? Sì, di uscire, di passare una serata insieme. Vabbè, dopo se non occorre ripetere, sua, entrare nel merito. Andiamo insomma a casa. Ma perché sua? Non occorre, occorre ripetere? No, occorre, certo, occorre, no, assolutamente vabbè, ripetere. Ma che chiesa? Capito, basta. Qual è la chiesa? La chiesa si trova a una provincia di Campobasso che si chiama Casalenda. Casalenda? Sì. Casalenda, ma questo ti ha offerto dei quattrini, dei soldi? No, ma non mi ha offerto niente, mi ha offerto solo che offre. Guardi che se non è vero lei sta però mettendo in difficoltà una persona. No, io non sto dicendo cazzate, Parenzo, non sto dicendo cazzate. Se non è vero, lei sta facendo una diffamazione bella e buona, io glielo dico. No, è così. Come si chiama, Don? Beh, don, meglio non dirlo forse. Don? No, va don, bene. No, forse dici, è meglio non dirlo però. Don? Però perché... C, iniziale. Don C, Don C di quel paese là. Sì. Di quel paese là. Vabbè, ci prova con lui, insistentemente sta dicendo. Vabbè, tu. No, Parenzo, ma se mi rompe il cazzo quello, io una trombata la posso pure dare, però lo rompo il culo, eh. No, stai calmo, stai tranquillo, dai. Cioè, non se rompate nel senso, lo rompo il culo veramente, perché sai che noi egiziani... Vabbè, abbiamo, mito, ciao. Allora, si aggira per le rivolte nelle città, caro David, un signore che è un leghista di Ferrara, e che viene soprannominato, anzi si è autonominato Naomo, signor Naomo, Si chiama Lodi di cognome, no, ma è lui che sta col megafono in mano a Gorino, stava a Gorino con il megafono in mano. È praticamente una specie di, non dico di sobillatore, un professionista della protesta. Vabbè, si fa il parrucchiere, se non vabbè, sbaglio. Questo beh, può fare qualunque mestiere, no? Un mestiere degnissimo, assolutamente. Io lo chiamerei, si chiama Nicola Lodi. Vai con Nicola Lodi, che si è autonominato Naomo. Pronto? Sì, Naomo? Sì, sono Cruciani, Radio 24, ciao. Ciao Cruciani, buona serata. Come andiamo, Naomo? Andiamo bene. Come andiamo a rivolte? Andando... Cosa segui oggi? Oggi sto andando a Ficherolo a fare un giro di controllo, stiamo pattugliando tutta la... Pattugliando, La vicenda, cazzo, la vicenda di Ficherolo. Sì, ma pattugliamo che significa? Quanti siete? Perché parli noi, stiamo pattugliando, quanti siete? Stiamo pattugliando perché c'è una chat su WhatsApp di 50 persone che a turno con mezzi propri passano di fronte a questa struttura, si fermano, controllano, parlano col titolare e cerchiamo di impedire l'arrivo di questi nuovi clandestini in questo territorio di Ficherolo. Cioè tu praticamente... un rom della protesta lui, cioè così come i rom girano, lui è un rom della protesta, quindi lui c'è una protesta, lui boom. Sposta il suo caravan lì a Ferrara, noi li abbiamo cacciati. È un rom della protesta. Come li avete cacciati? Avete cacciato i Roma a Ferrara? Cacciati. Certo, con delle proteste abbiamo fatto in modo che le autorità emettessero dei provvedimenti di allontanamento da Ferrara, per cui noi non siamo Rom. Noi facciamo in modo che i Rom vadano via legalmente. Voi però, siete i Rom della protesta. Che cos'è il metodo Romo? Calci in culo e barricate praticamente. Calci in culo e barricate legali, cioè legali, insomma, giustizia, arriviamo noi. Però scusa, mio amico mio, ma noi chi? Ma, una persona fermare, che non ha nulla da fare, che anche il giorno del 1° novembre, anziché starsene a casa a leggersi un libro, certo, o al limite a guardarsi un pornazzo, certo, se non vuole leggersi un libro, va in giro. Cos'è sto rumore adesso? Hanno il libro sulle cooperative che lucrano, però adesso è il mio turno, io adesso per 2 ore vado a Ficarolo e faccio quello che dovrebbero fare. Va bene, va bene. La giostra, che la giostra cominci, che la giostra cominci, che la giostra scusami, Naomo, innanzitutto perché Naomo? Che c'entra Naomi Campbell? Cosa c'entra Panariello? Non ho capito il cazzo, spiega. Non c'entra niente, è un soprannome per questo per questa ammirazione che ho con Panariello, che imita Briatore. Non c'entra nulla col metodo Nomo. Il metodo Nomo è calcio in culo, cioè calcio in culo agli immigrati. Non vuoi i negri, dai, non vuoi i negri in Italia, diciamo la verità. Assolutamente però. No, non è questione. Ma dai, come ti chiami tu? Nicola Lodi, come ti chiami? Nicola Lodi, Manolo, Naomi, Nicola Lodi, Ruspo, hai pure una ruspa in mano. Naomi era la moglie di Briatore. No? Ma che c'entra con te la moglie di Briatore? Nulla. Ma quella lo schifa, sicuro. Non vogliamo gli immigrati. Siamo vabbè, questo mi pare non una novità per voi della Lega. Siamo già pieni. Mi fa schifo questo sistema falso che accoglie questi negri. Però scusami una cosa, tu praticamente sei ogni volta diventi il capo di una rivolta dopo Golino. Adesso si passa a quest'altra città. Ma quale rivolta? Ma figurati, un poveretto. Non sono rivolte, sono manifestazioni. Sì, ma occupare una strada in teoria, io sono nessuno. Sì, occupare una strada in teoria potrebbe essere anche un piccolo reato, no? Certo, o no? Certamente. Cioè, ma io spero sono che anche autodenunciato io 2 settimane fa per questi reati, Se ne sono fottuti tutti. Sono autodenunciato perché non è reato durante una manifestazione dei centri sociali come sabato a Ferrara definire Lodi a Piazzale Loreto? Non è un reato quello? Cioè ti hanno detto che devi finire a Piazzale Loreto praticamente? Abbiamo un sogno segreto, Lodi e Piazzale Loreto. Sì, quello non è un reato? Ma forse che vada a Piazzale Loreto, nel senso che passi per Piazzale Loreto a Milano. Non andrò a Piazzale Loreto, siccome io sono anche abbastanza robusto, faranno fatica a prendermi a destra in giù, non è un problema. Piazzale Loreto. Noi lavoriamo e abbiamo portato a Ferrara. Noi chi? Ma noi sempre loro. Ma quanti siete? Quanti siete ad aizzare la protesta? Ma aizzare dipende dalla situazione. Che Banelli eravamo in 40, Piccarolo siamo in 60, dipende dalle situazioni. Ma lei ha una famiglia anche di adozione, una famiglia di origine, diciamo, degli affetti, delle persone che le vogliono bene, dei cari, non lo so. Sì, ma io ho tanti amici che mi vogliono bene. Io potrei ma degli affetti cari, ce li ha qualcuno che le fa una carezza ogni tanto? Dice, va bene, dai, stai calmo, stai sereno, non ti preoccupare. Ce l'ha qualcuno che le fa una carezza? No. C'è gente che mi dice, come mai oggi non fai niente? Solo Salvini. Stamattina da Roma, stasera andremo là. Insomma. Però Naomi, scusami un attimo, Naomi Deno Altri, però spiegami una cosa. Sì. Fai pure il parrucchiere, non mi sbaglio, no? Ma certo. Quando cazzo lo fai il parrucchiere se stai in giro per rivolte in tutta Italia? Scusami. Il parrucchiere lo faccio nelle ore di negozio, visto che l'attività è mia, posso permettermi anche ogni tanto di chiudere qualche mezza giornata. Parenzo, perché non vai a farti fare i capelli da Naomi? Magari. Fosse l'ultima cosa che fa, piuttosto me li faccio crescere come un hippie negli anni 60, guarda, cioè fino ai piedi. Guarda, Parenzo, io ho 30 anni, 25 anni che faccio parrucchiere e saresti anche un cliente benvenuto, dico la verità. Vada in un campo nomadi a tagliare un po' i capelli e a lavarli ai nostri amici. Assolutamente. E quelli quando lo pagano? Andiamo a dare i calci in culo e sgomberare. Quando lo pagano? I gabbi rom, scusa. Non lo so, vada nei centri di accoglienza, gli rubano pure le forbici là. Gli rubano pure le forbici. Naomi, scusami un attimo, dopo, come siamo qua, a Ficarolo, dov'è che andrai a rompere le balle? Abbiamo tra Ferrara e Cento, c'è un nuovo arrivo, che è arrivato oggi alla comunicazione, che già questa sera hanno monitorato. Dov'è? È una struttura privata. Dov'è la località? Dov'è? Una struttura privata. Sì? Che stanno occupando e andremo lì. Dov'è? Dove si trova? Tra Ferrara e Cento. Vabbè, tra Ferrara e Cento, dimmi la località. Non posso dirti la località, altrimenti sarebbe... rompiamo il giochino. Ah, ma che è tutto un gioco, non ho capito. Vabbè. Sì. mandato un inviato che vedete. Naomi, come cazzo di vale la pena, sì, mandare un inviato lì. Strano che anche le altre televisioni e radio italiane non ci abbiano pensato, effettivamente. No, veramente è pieno, eh. No, senza pensato. Senza pensato perché quindi anche al seguito di Naomo? Al seguito di Naomo, Giletti. Al seguito di Naomo. Giletti, quinta colonna. Giletti è molto simpatico, infatti. Allora, Naomo. Avranno usato il fenomeno da baraccone, giustamente, ha detto adesso andiamo a smascherarlo. Il pitbull dell'Emilia, Naomo. Sì, proprio così, il pitbull dell'Emilia. Ciao, Ficarola. Ciao. Poverino. Ragazzi, in conclusione voglio farvi ascoltare questa roba qui. Oggi pare che sia la giornata, parenzo, mondiale dei vegani, del veganesimo. Un ristorante che si chiama Piovono Zucchine a Brindisi, o da quelle parti. Carino il nome del ristorante, però. Sì, Piovono Zucchine. Si è inventato ieri, credo, con grande scandalo su internet, una specie di campagna. Che praticamente aveva una zucchina come disegno centrale, poi c'era scritto dolcetto o terremoto, aperti il 31 a cena. Cioè, si è fatta pubblicità, questo ristorante si è fatto pubblicità con il terremoto. Miserabile. Grande allora. Scandalo. Loro dicono che in realtà volevano fare beneficenza ai bambini. Questa è stata la spiegazione successiva. Sentite questa telefonata, perché li abbiamo chiamati molto incazzati e ci sentiamo domani. Ciao. Pronto? Sì, Piovono Zucchine? Sì. Voi avete fatto quella pubblicità dolcetto terremoto? Sì. Vergogna, sì. Vergogna, sì. Vergogna. Mi dica, mi dica di cosa nello specifico. Sì, però. Le sto spiegando, sì. Se mi lascia dire. Okay, lei sfrutta il terremoto, che è una disgrazia pazzesca. Siamo al Medioevo. No, ma lei è al Medioevo. E che cos'è questo? Lei al Medioevo. Lei non ha letto una spiegazione che noi abbiamo dato. Senta, basta la frase. Noi siamo la terra dell'accoglienza. Ma con chi ti credi di avere E questa è terra dell'accoglienza. Che stanno davanti questa a terra con le mutande. Cioè, cosa con le mutande? Come cazzo ti permette? Senta, qualche sfigato poteva ha lanciato delle cose. Lei poteva tranquillamente. Io quello che dovevo fare non me lo deve dire nessuno. C'è gente disgraziata che è senza tetto. Che cosa c'entra? Come cosa c'entra? Dolcetto terremoto è una presa per il culo la sua. Ma dolcetto terremoto, sì, è una presa. Come se mi permetto, lei come si permette a scrivere dolcetto terremoto? Ma ha letto la spiegazione di quel lei posto. Non doveva permettersi di no, scrivere quello che non dovevo io lo dico io non lo dice lei. Non doveva permettersi, è una vergogna. Lei deve chiedere scusa ai terremotati. Lei deve chiedere scusa. Io ho capito benissimo. No, non ha capito perché non ha letto nulla. Quel mondo lì è lo stesso mondo che ha reso virale qualcosa per poi chiedere soldi in cambio a noi per risolvere il problema virale. Ma sta capendo qual è la gravità della situazione? Che io non chiedo nessun soldo, io le sto dicendo allora, solo che si deve vergognare. Lei, non sto parlando di lei, sì. Noi siamo dalla Puglia. Ma chi se ne frega della Puglia? Ma chi se ne frega della Puglia? Io me ne frego della Puglia. A me interessano i terremotati perché ci ho parenti. No, ma come cazzo si permette? È da vergogna. Va bene, allora vergognatevi, che cazzo vi devo dire? Perché lei è un bigotto del cazzo. No, cazzo. Noi abbiamo mandato il nostro assegno, frutto della cena di beneficenza di ieri sera. Questo facciamo noi, che è una cosa completamente diversa da quello che sta dicendo lei. Più sesso, meno zanzara. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh.